Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Flavio Briatore, 64 anni, da Verzuolo, provincia di Cuneo, sposato con un figlio, un simbolo dell'imprenditoria italiana che ha vinto nel mondo. C'è chi lo ama e chi lo considera il re del kitsch. In realtà lui è stato per anni il manager più pagato della Formula 1, ha inventato Schumacher e Alonso e oggi con il suo marchio il bilionario è il re delle vacanze di lusso. Ama il Kenya, dove investe e guadagna. È amico di Berlusconi, ammira Renzi, parla chiaro e fino a ieri diceva: in Italia non investirei mai, troppa burocrazia, troppa ideologia, non si può. Ecco Briatore, adesso che Renzi ha vinto, tornerebbe a investire in Italia? No. No, sempre no. No, no, perché Renzi ha vinto, è stata una vittoria straordinaria. Se l'aspettava una vittoria così clamorosa? No, assolutamente no. Credo che Berlusconi gli ha fatto una bella campagna elettorale. Ecco, lei è amico di Berlusconi, pensa che il loro accordo sulle riforme andrà in porto? Io credo di sì, credo che Berlusconi e Renzi sia una coppia fortissima in questo momento. Ecco, che cosa hanno in comune secondo lei? Ma sono due leader. Sono carismatici, sono giusti. E a parte l'età, di differenza, la differenza più grande? Ma io credo che la differenza più grande è proprio l'età. La differenza qual è? Berlusconi è stato un fenomeno dal punto di vista imprenditoriale, abbiamo visto le televisioni che ha create. Matteo è un fenomeno dal punto di vista comunicazione politica. Senta, Renzi ha detto a Confalonieri che Berlusconi ha cambiato l'Italia più con la sua televisione che con le sue leggi. Lei è d'accordo? Ma io sono d'accordo, anche perché di leggi che hanno cambiato l'Italia non l'abbiamo ancora viste. La televisione sì, dice. Televisione sì. Ecco, ma cambiata come? La televisione di Berlusconi come l'ha cambiata l'Italia? Berlusconi è stata la prima televisione commerciale, certo. Ha dato una scossa enorme alla televisione di Stato, ha svegliato anche la televisione di Stato, ecco. Ha comunicato direttamente con il pubblico la televisione di Berlusconi. Senta, ma Berlusconi dovrebbe ricominciare da lì, dalle televisioni, secondo lei? Dovrebbe ricominciare di lì e dovrebbe trovare il famoso numero uno. Ne parleremo. Ecco, il mondo dei diritti televisivi del calcio sta cambiando la geografia del potere mediatico. Secondo lei chi vincerà? Ma sarà una lotta a due, perché parliamo di Fininvest e Sky. Certo. E credo che prima o poi si metteranno d'accordo. Dovranno trovare un accordo. Ecco, sì. Ma non è più facile che Berlusconi venda ad Al Jazeera la sua pay? Vedo molto difficile. Perché? Perché in questo momento investire in Italia non è che sia un paese così appetibile. Allora, può farlo chi c'è già, insomma, come Sky, dice lei. Ecco, anche la Formula 1 però in televisione comincia ad andare molto meno bene. Le piace questa nuova Formula 1? No, non è la nostra Formula 1, è un'altra Formula 1 che può piacere o no, visti i risultati e visti gli audience, sicuramente piace molto meno. Ma perché, secondo lei? Ma perché ci sono le macchine che non fanno rumore, ci sono i piloti che la domenica devono risparmiare benzina, ci sono i piloti che quando sorpassano sono sorpassi finti perché si apre l'alettone dietro, per cui chiunque può sorpassare chiunque, si sorpassa quando i piloti vanno in crisi di gomme, cioè uno sport... Cioè conta molto meno il pilota? Sì, non è più uno sport di gladiatori, è uno sport di ragionieri. Un pilota dentro la macchina deve fare i suoi conti, i suoi calcoli, invece di pensare di dare sportellate e vincere le gare. Senta, la Ferrari però in questo mondo è in crisi profonda, ha perso la possibilità di recupero? Quest'anno assolutamente sì. Sì. Ma è indietro con la tecnologia la Ferrari? Ferrari paga anche la location, Maranello non è il centro sicuramente del mondo tecnologico, è l'Inghilterra. Io ho sempre detto che chi vuol fare una fabbrica di prosciutti deve andare in Langhirano e chi vuol fare la Formula 1 deve andare in Inghilterra. E questa tecnologia mista lì non si sviluppa, anche la Fiat non l'ha sviluppata tanto. Ma è difficile, no. Io credo che la Ferrari è un momento molto molto difficile e secondo me ci vuole una profonda ristrutturazione del team. Uomini sbagliati quindi. No, è un fatto di organizzazione, noi sappiamo esattamente chi sono i bravi e difficilmente i bravi vengono in Italia. Eh già, perché bisogna andare a stare a Maranello. Bisogna stare a Maranello, tutti hanno famiglia, hanno bambini, hanno i mutui, hanno le case, per cui gli inglesi sono molto meno propensi a trasferirsi all'estero rispetto agli italiani. Ecco, lei è il manager di Alonso, che è il più forte, e lo stiamo dicendo, non vince. Che cosa gli dice? È molto arrabbiato. Va piano, c'è una macchina che va piano. La macchina è l'80%, il pilota è il 20%. In questo momento una macchina... Nel momento migliore della vita professionale, senza macchina. Senza macchina sta combattendo, perché lui è un ferrarista dentro, io lo sento quotidianamente, ci vediamo, però sicuramente per un pilota come lui è molto frustrante pensare che non può arrivare al podio. Ecco, lei si dice che un giorno abbia detto all'avvocato Agnelli che Montezemolo era un grande manager perché aveva realizzato in 10 anni un programma triennale, è vero? No, credo che Luca, il lavoro di Luca l'ha fatto, nel senso che ha raccolto i soldi. Ferrari è sempre stata molto finanziata, molto molto bene, con sponsor, e Luca in questo è stato fenomenale. Ecco, questo invece sono cattiverie. Sono cattiverie. Senza, ma è stato giusto cambiare il team manager in corsa come l'allenatore? Non serve a niente. Con una macchina così si vede che non serve a niente. Non serviva molto. Ecco, ma lei ha nostalgia della vita del circus? Assolutamente no. Questa Formula 1 non mi interessa, anche perché non è più. A Monte Carlo l'ultima gara capivi che senza rumore non è più la nostra Formula 1. E non è più la nostra Formula 1 anche perché le macchine vanno molto piano. Una GP2 in questo momento potrebbe essere nei primi 15 in griglia, ai tempi miei era a 18 secondi. Con dei budget un po' diversi. Sì, con 3 milioni di budget di due macchine contro i 300 e c'è una differenza di un secondo. Senta, lei comunque ha lasciato le corse anche perché è stato costretto. Mi racconta di che cosa è stato accusato? No, è stato accusato dell'incidente di Piquet a Singapore. Sì. Oltretutto io ho licenziato Piquet 2 gare dopo, per cui se avevo una combine con Piquet, l'ultimo che avrei licenziato è stato lui. Sono andato al tribunale civile di Parigi, sono stato assolutamente rimesso in Formula 1. Ma lì però ha deciso di non starci. No, è stato un fatto politico. Noi in questo momento lì avevamo un potere molto forte con i team, c'era un'associazione che era l'associazione costruttori, io ero il numero 2, numero 1 era Luca. Ed è successo quello, che loro pensavano che noi portassimo via il business dalle mani della federazione di Ecclestone, e per farmi fuori è nato questo scandalo. Senta, lei è entrato nel mondo delle corse con Luciano Benetton, come? Ma un'intuizione di Luciano, perché io lavoravo con... Da dove Benetton. Veniva lei? Io venivo dagli Stati Uniti, lavoravo con Luciano Benetton, col gruppo, negli Stati Uniti per 8 anni, e siamo partiti negli Stati Uniti per fare i negozi Benetton, io mi occupavo... E quindi dai negozi, anche lei dai negozi all'automobile? Dai negozi all'automobile, senza... Senta, ma di lei da giovane a Cuneo si sa poco, cosa si ricorda della sua adolescenza? Si sa poco perché ho fatto poco, non ho fatto assolutamente niente di straordinario, ho fatto le cose che fanno i ragazzi. Ma che ha sempre pensato però di voler scappare da Cuneo? No, ho sempre pensato di andare in un posto dove ci fossero più opportunità. E qual è stata l'occasione? L'occasione è stata Milano, mi sono trasferito a Milano per anni e poi l'occasione è stata Benetton. Io devo sempre ringraziare Benetton per quello che... L'opportunità ha fatto che per le me. Ha dato. Ecco, ma è vero che quando lei ha preso Schumacher alla Benetton, Luciano era furioso? No, era in Giappone, era per cui era difficile comunicare. E no, non riuscivo a capire come mai ho montato tutto un casino del genere al Gran Premio di Monza per uno che lui non ha mai sentito nominare. Cioè, un nome che non si riusciva a pronunciare. Esatto. E adesso no, c'era un portiere se che ti si chiamava già, è vero. Si chiamava Schumacher, giocava in Germania. È vero, e quindi si è sbagliato. Ma notizie certe su Schumacher, come sta? Non ci sono news, anche perché la famiglia è molto, molto chiusa, non comunica, ma sicuramente non essendoci news non è una buona notizia. Non è good news. Ecco, la leggenda racconta che quando la Benetton vinceva sempre il mondiale, l'avvocato Agnelli disperato le ha chiesto cosa si poteva fare per far vincere la Ferrari. Lei cosa gli ha detto? Pitturare di rosso le Benetton. Era la cosa più facile e più economica. E più immediata. Senta, insomma, Agnelli non riusciva a sopportare che la Ferrari perdesse contro chi faceva golf e magliette. No, ma non solo lui, credo che anche Frank Williams, Ron Dennis... Non erano contenti. No, perché era un mondo talmente tecnologico e noi quando siamo arrivati ci hanno con preso magliette, un po'. Che... magliette, casmirini e pulloverini e invece... E li battevate. Siamo stati molto bravi. Ma lo vede ancora Luciano Benetton? Sempre, un ottimo rapporto. E come lo definirebbe Luciano Benetton? È un genio. Io credo che Luciano, il gruppo Benetton è stato uno dei primi gruppi internazionali italiani e Luciano è stato il guru di questo gruppo, lo definirei un genio. Ma perché sono usciti dall'automobilismo? Ma perché è finito un certo modo di fare corse, i costi sono andati alle stelle, la Formula 1 è stata presa in mano dagli ingegneri, per cui se non avevi un costruttore alle spalle diventa molto difficile fare la Formula 1. Mi sembra molto polemico con gli ingegneri nell'automobile. No, ma anche adesso, no? Vedi che loro. Chi vince ha delle strutture formidabili dietro, no? Ecco. Ma è vero che nel periodo in cui lei è stato la Renault è stato il manager italiano più pagato? Ma no, spero non solo italiano. Non solo italiano. Senta, ma oggi il suo lavoro principale qual è? Oggi io mi occupo dei marchi Billionaire, Twiga, stiamo facendo dei resort, stiamo facendo degli alberghi, stiamo facendo dei ristoranti con Cipriani, per cui cerco di investire al meglio i miei soldi. Senta, lei è dipinto come un mondano che vive tra feste e belle donne, si riconosce? No, io sono dipinto, mi alzo al mattino prestissimo, lavoro credo 8, 10, 12 ore al giorno, per cui feste pochissime, mondano pochissimo. Senta, però ha avuto sempre donne bellissime, qual è il segreto del Briatore seduttore? Credo che le donne hanno bisogno di qualcuno che ogni tanto le faccia anche ridere, no? Fatto... Poi ho avuto anche, si vede che ho avuto anche fortuna. Ero al punto giusto, cioè, nel momento giusto. Incontrava tutte lei, però. Incontravo tutte io. Vabbè, insomma, i soldi aiutano molto, no? Abbastanza. Sì, Senta, a suo figlio Falco, cosa vorrebbe essere sicuro di riuscire a insegnare? Mio figlio Falco vuole insegnare che, prima cosa, è che non è così semplice. Poi mio figlio avrà molte difficoltà perché vive una situazione che... rispetto a tanti altri grande ragazzi, privilegio, certo. E di privilegio devo fargli capire quello che ho fatto io non l'ho fatto per lui, l'ho fatto per altra gente che lavora con noi e lui, se vuol continuare a fare il mio lavoro, deve essere altrettanto bravo e consistente. Lei è un papà severo? Molto. Molto? Sì, assolutamente. Ecco, e la paternità adulta, cosa gli ha insegnato che non sapeva? Una roba nuova, è un processo completamente diverso, un'emozione diversa e non sono miti ma sono sentimenti, per cui è una roba completamente nuova. Senta, ma è vero che sua moglie aspetta un altro figlio? Che, no, non lo se so. Lei non lo sa. Ecco, ma se le non piace... è successo in questi 10 giorni non credo. Ma le piacerebbe? Assolutamente sì. Sì. Senta, torniamo a Renzi, che cosa le è piaciuto di più di lui? È un bulldozer, cioè uno che va avanti nonostante, è uno che va avanti, speriamo che lo lasciano andare avanti, perché io sono sempre convinto che in Italia per cambiare le cose ci vuole un potere esecutivo molto forte. Il primo ministro dovrebbe essere eletto dai cittadini, deve fare una lista di ministri e poi deve andare a un congresso, a una camera. In Italia sei eletto dalla camera e questi qui poi ti tengono sempre in gioco, per cui le cose non succedono mai, questo è il problema vero dell'Italia. Bisogna cambiare, infatti l'accordo di Berlusconi e Renzi sarebbe per cambiare la legge elettorale. Assolutamente. Senta, ma un difetto di Renzi? Lo vede? No, io credo che certe volte non ha una squadra fortissima, secondo me. Ma sarà in grado di far valere in Europa il peso che ha preso in Italia con le elezioni europee? Molto difficile, perché il peso dell'Italia rimane quello che è. Cosa dovrebbe fare in Europa? Ma in Europa noi viviamo in un'Europa con una valuta che non è la nostra, nel senso che noi, a differenza degli americani e dei paesi forti che possono stampare valuta, noi viviamo con una valuta straniera. Il problema straniera. È sempre quello. È sempre quello, per cui non cambierà mai. Senta, Briatore, nel marzo del 2008 abbiamo avuto l'incarico per l'Expo. Avevamo 2.583 giorni davanti. Oggi ne abbiamo 300, esplodono gli scandali. Ce la faremo o sarà una figuraccia mondiale? Ma farcela, secondo me, ce la fanno. Ah. Bisogna vedere come uno ce la fa. Sicuramente qualche capannone adesso lo tireranno su. Però io sono stato in Spagna l'anno dell'Expo spagnolo con la Renault, avevamo fatto una grande esibizione, un anno prima che l'Expo avvenisse era già tutto finito. Tutto fatto. Ma se avessero chiamato lei a fare il commissario cosa avrebbe fatto? Ma io non so, prima di tutto lo fai il commissario quando c'hai 4-5 anni davanti, non certo. È che puoi fare il commissario certo. il giorno prima. E come giorni. Ti mettono in panchina con una formazione già fatta, certo. Conti niente. Ma c'è una cosa che lei oggi farebbe volentieri invece per l'Italia se Renzi gliela offrisse? Io credo che se uno avesse tempo e non avesse gli impegni che ho, la cosa che mi piacerebbe in Italia è il turismo, perché penso che sia l'unica cosa che noi abbiamo che gli altri non hanno, che è il territorio nazionale. Certo. Ed è il turismo dovrebbe essere... dovrebbero abolire l'articolo 5. Il turismo dovrebbe essere... la parte migliore del Presidente del Consiglio. Renzi dovrebbe avere un biglietto da visita col Colosseo, perché è l'unica risorsa vera che abbiamo il turismo. Tutto il resto, tutte le nostre aziende generiche non sono più competitive. Ecco, Farinetti l'altro giorno ci diceva qui che l'Italia ha 5 vocazioni: l'agroalimentare, la moda e il design, il patrimonio artistico, l'industria manifatturiera di precisione e il turismo, appunto. Che basterebbe mettere 5 persone competenti in ognuno di questi comparti e il gioco è fatto. Lei è d'accordo? Sono d'accordissimo. In effetti sono le cinque aziende, strategie che possiamo io invece avere. Metterei proprio in evidenza il turismo. Il turismo potrebbe aumentare di un 4-5 punti il PIL italiano, perché la moda poi è quella che è un fatturato che rimane, ma è quello che non è. Beh, non però è ci sono mercati che in sì, espansione. Però non crei posti di lavoro come può creare un turismo organizzato. Certo. Ma 5 nomi lei ce l'avrebbe per questi 5 settori? Cioè, in Italia ci sono poco. Conosce poco. Intanto lei invece dice che si fida dell'Africa. Dice, io credo che l'Africa sia il futuro, lì c'è sviluppo enorme. Ecco, dove? Ma Mozambico. Io sono stato in Mozambico 15 giorni fa. Mozambico nel 2020 sarà uno dei paesi più ricchi d'Africa. Sicuramente sarà un paese a livello di Nigeria, a livello di Qatar. E quindi diciamo il futuro dell'Africa è prossimo, non è remoto, è vicino, non lontano. Assolutamente. Mozambico è una situazione particolare, hanno trovato i più grandi giacimenti di gas. Però penso che anche il Kenya, la Tanzania, sono paesi dove la gente vuole lavorare, dove la gente vuole comprare la bicicletta. È un po' come in Italia dopo la 45, guerra. Dopo ecco, la ma guerra. Lei investe lì, sì. Sì, non c'è burocrazia, è facile, le leggi sono chiare, non ci sono interpretazioni, se devi fare una modifica in 2 giorni ti dicono sì o no, per cui è molto più semplice fare l'imprenditore. Ma c'è più corruzione in Africa o in Italia? Ma io onestamente in Africa credo che abbiamo aiutato della gente, noi abbiamo avuto dei terreni da parte del governo, abbiamo costruito su questi terreni delle case per governative. Non credo che ci sia corruzione, poi logicamente vabbè, insomma, ce ne sarà un po' come dappertutto. Senta, ma lei in Africa ha anche molti casinò, quanti? Non lo so, io ho il 50% di una società che da anni, credo 7-8. Rendono bene i casinò? Rendono come una normale azienda, se gestita bene rendono bene, se gestita male non funzionano. Senta, però in Africa c'è anche un terrorismo islamico che avanza, è un pericolo reale? Sicuramente è un pericolo e credo che adesso, specialmente in Kenya, dove abbiamo diversi interessi, se ne stanno occupando seriamente. Tutto è nato quando Kenya ha invaso la Somalia. E a questo punto qui sono successi degli attentati sempre tra di loro, però cioè non hanno mai toccato il turismo in questo fino a questo momento. Può anche succedere che se uno va giù e cerca dei problemi li trova. Senta, lei dice quando arrivo a Roma però mi sembra Nairobi, allora si può investire anche qua? Si potrebbe investire anche qua, preferisco investire in Nairobi, quello ufficiale. Quella vera. Senta, Bersani, parlando di Renzi, diceva il PD di Renzi va bene per Briatore. Va bene per il 40% degli italiani, no? Bersani anche lì ha perso il treno, non ha capito. Non l'ha capito quello che capitava. Esatto. Senta, una cosa che le chiedono tutti, però lei ai ragazzi della Bocconi ha detto non fatevi infinocchiare su 1 milione di start-up, solo una va a buon fine, aprite una pizzeria che è molto molto meglio, almeno mangiate una pizza invece di un software se ti va male. Credo che non è stata esattamente così. Noi abbiamo molti avvocati, abbiamo molti commercialisti, cosa manca è la manualità. Noi stiamo perdendo dei lavori. Io ho detto ai ragazzi, qualunque lavoro voi vogliate fare, intanto trovatene uno. Sì, imparare a fare anche un lavoro. Anche se non è il lavoro dei tuoi sogni, intanto impara un lavoro. E poi, se ti appassioni, anche essere il miglior panettiere è come essere il campione del mondo, no? Senta, a proposito del campione del mondo, i vincitori del suo programma, sì, The Apprentice. Uno l'anno scorso, uno quest'anno. Quello dell'anno scorso come va? Benissimo, si è occupato del Kenya, adesso è ritornato, si occupa dei vari billionaire. Cioè, dopo la vittoria che ha fatto, ha mantenuto il posto di lavoro? Assolutamente, li abbiamo rinnovato per altri 3 anni, assolutamente sì. Bene, senta, però il CEO di Google dice il contrario di quello che dice lei. Dice, se tutto quello a cui tenete sono i soldi, andate al college. Se sono cultura e creatività, andate al college. Se è per divertirsi, andate al college. Insomma, studiare serve tanto. Consiglio opposto al suo. No, possono anche vivere tutta la vita al college, però poi bisogna vedere. L'America non è l'Italia, perché qui parliamo quando gli americani parlano dell'America, certo. Perché per l'America non hanno problemi chi è l'euro, chi non è l'euro. Per l'America c'è il dollaro, e quando parlano di i college, dove sono? In America. Loro, l'America è un altro paese che ti dà sicuramente molte più chance, molte più possibilità che non l'Europa e che non l'Italia. Senta, Briatore, le faccio un'ultima domanda. Lei dice che Berlusconi dovrebbe trovare il suo numero uno, l'ha detto anche in apertura, e non il numero due. E dice però che lo deve trovare subito, adesso, perché è l'ora. Potrebbe essere lei il numero uno di Berlusconi? Io credo che l'abbia trovato. Sì? E chi è? È Renzi. Grazie. Mix 24. E allora Mario, titolo dell'intervista del Briatore? L'imperatore Flavio. E tu, Pietrangelo? Posso farne due? Due, va. Una è quella cosa ghiotta, fondamentale, che è il numero uno di Berlusconi e Renzi. Dopodiché farei così sul futuro dell'Italia. Allora, due punti: un popolo di santi, albergatori e ristoratori. Beh, non male, era il consiglio principale. Musica. C'entrava già dimenticata quella canzone malandrina, la radio in auto sotto le stelle accarezzavo la tua pelle. Musica metropolitana? No, questa volta che cosa non fa la radio? Musica della radio in macchina. In un certo punto che cosa succede? Che una canzone malandrina sotto le stelle poi procura uno sconquasso al cuore, al futuro, a quello che uno immagina, vive, soffre. E poi può capitare invece una delusione, che quella canzone malandrina venga dimenticata, ripudiata, odiata, perché fa troppo male da far soffrire come un animale, tutto svanisce e diventa una sbiadita cartolina, e quell'accarezzare la pelle fa troppo male sotto quelle stelle. Giorgio Conte, in questo ritratto, quadro, affresco, in questo meraviglioso dipinto, Gli innamorati e la Marina, che cosa dice? Sembra di impazzire, per colpa tua è dimenticata e sono Gli innamorati e la Marina. Quella canzone, per colpa tua, vabbè, dimenticata, eccola qua, è ritornata, ma adesso non fa più paura. Proviamo a sentire le bolle nel mondo oggi, dove bene, ci portano? Vai. Qui sono, Ivan il matto. Spegnere i motori. Ogni tanto i comandanti russi, per vedere se sono seguiti, virano all'improvviso. È il cosiddetto Ivan il matto. Allora, questo era un pezzetto di Caccia Ottobre Rosso. L'ho visto ieri per la decima volta, credo. Spettacolare. Poi scoprì sempre dei particolari nella sceneggiatura, nella regia. Come tutte le grandi cose, certo. Che meraviglia. Allora, vabbè, Ivan il matto, la Russia, perché ci occupiamo di gas. Allora, la Bulgaria ha interrotto i lavori per la costruzione di South Stream. Bene, Putin ha avvisato però che nessuno può permettersi di rinunciare a collaborare con i russi nel settore energetico. a me pare che non faccia una piega questo. E in effetti il ministro bulgaro dell'energia, Dragomir Stoinev, ha subito corretto il tiro. Ha detto, e cosa ha detto? Che South Stream comunque è un progetto irreversibile, molto interessante. No? In effetti, sai, vale 45 miliardi di dollari, deve entrare in funzione nel 2018, trasporterà 64 miliardi di metri cubi di gas naturale in Europa, senza passare per l'Ucraina, la quale nel frattempo ancora non ha trovato il modo di pagare il piccolo debito, 2 miliardi e mezzo, anzi 3 erano veramente, che ha con Gazprom. Putin ha fatto un'offerta, o meglio Gazprom ha fatto un'offerta, però all'Ucraina il prezzo non va bene. In ogni caso siamo sempre al dilemma che noi avevamo posto, e cioè le certo. rivoluzioni costano, chi paga? A questo punto però c'è una cosa meravigliosa, le sanzioni. Allora, le sanzioni hanno prodotto il classico boomerang, perché siccome le transazioni dei mercati mondiali avvengono in dollari, allora i russi e le grandi imprese russe hanno detto, beh, ma qua forse è il caso che ci copriamo dal rischio. E che cosa sta succedendo? La de-dollarizzazione dell'economia russa. Che cosa significa questo? Che le riserve, i depositi, le transazioni, i contratti, su queste cose viene fatto uno switch. E vengono praticamente fatte con lo yuan, cioè con la moneta cinese. E quindi torna tutto, nel senso che torna tutto a sfavore di chi ha messo le sanzioni alla fine. Cioè queste sanzioni non sono servite a niente, anzi non sono servono a nulla, fate così boomerang. Non servono a nulla, sono un boomerang e attenzione, perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, e in un'economia interdipendente come questa aveva poco senso fare una cosa del genere. Penso che continueranno, però, perché non mi sembra che le armi diplomatiche le abbiano un po' spuntate. Mm. In ogni caso, io sono per la vecchia scuola e dunque vai. Perdonami Giovanni, ma erano parecchi giorni che io non... Forse uno. Non la mettevo, certo. Sai. E avevo l'astinenza. Tu la vuoi una vita connessa? Ma insomma non troppo. Tu butta fuoco, vabbè, non distrarti. Buttafuoco è la connessione vivente. Perché cammina. Non siamo moderni ma siamo contemporanei. Vabbè, senti, indossate qualcosa, va, tipo questa. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Allora, questo era Il diavolo veste Prada, è uno dei monologhi più belli, un bellissimo doppiaggio. Intanto ricordo 800 24 00 24 il numero verde, l'SMS 349 238 6666. Andiamo avanti con allora, Prada. Allora, tu la mattina ti alzi e dici, vabbè, cosa mi metto? La mia classica camicia bianca, no? Minoli e Buttafuoco oggi sono fratellini, hanno una camicia bianca entrambi. Sempre. Io invece che sono più tamarro, oggi sono venuto con una maglietta normale. Vabbè, splendida messo, maglietta che segnala la tua cura dimagrante. Sì, molto briatoresca. Molto dimagrante. Molto briatoresca. Molto briatoresca. L'avevo capito, mi state a mettere in mezzo. Oh, comunque, in ogni caso, la mattina quando vi svegliate, tra un po' dovrete pensare non solo a quale indumento indossare, ma anche a quale telecamerina portare appresso, perché è l'effetto del pervasive computing. Pensate che cosa succederà appunto con i Google Glass. Già stanno succedendo cose incredibili nei ristoranti, le regole per indossarli, per farli togliere quando mangi e così via, e sono già in commercio due cose, l'ho visto sulla rivista del MIT di Boston, una si chiama Narrative Clip, l'altra Autographer. Non le maneggi, le indossi e scattano i tuoi ricordi. Vabbè. Problema è sempre quello di avere dei ricordi. Salamino. Non è disfatta, è sconfitta. Questo è il termine scelto apposta da Silvio Berlusconi per commentare riservatamente ciò che ufficialmente non ha voluto considerare. Riprende il debello Fittico, che era stato lasciato tra parentesi nei giorni del ballottaggio, e Raffaele Fitto, appunto, il cosiddetto mister preferenze, e Mara Carfagna alzano la voce. La sconfitta di Cattaneo in quel di Pavia sembra la conferma di un pregiudizio, e cioè che il cerchio magico troppo vuole e nulla stringe. La vittoria di Padova, poi, è tutta leghista con l'elezione di Bitonci. Certo. Salvini poi è Salvini, non ha mai portato neppure un croccantino a Dudù e restano in guerra. Il capo è adirato e fa un'accusa che le liti hanno portato a questa sconfitta. E però resta sempre la guerra di Fitto e di Carfagna, a cui Berlusconi ha riservato una canzone che io vorrei far sentire, perché loro è il cuore ingrato. Oh, confessore, che persona santa, marito figlio mio, lasciala sta. Beh, accidenti. È nella versione di Frank Ingrassia. Fantastica, beh, memorabile. Il cuore ingrato. Bolle. Già, quota rosa. E infatti parliamo di tennis. Giovanni, ma chi era l'uomo e chi la donna in queste grida? Senti un Fammi po'. Fammi risentire. Beh, la Sharapova. Sharapova che è? Come che, senti come che è? Ma è una donna. Certo, no, perché qua, direi che inequivocabilmente... Posso dire, è una femmina. È una assolutamente. Però si stanno riscrivendo le liturgie del tennis, o almeno dovranno farlo quelli che si sono sconvolti alla notizia che Amélie Mauresmo è diventata l'allenatore di Andy Murray, un giocatore scozzese di tennis. Lei è stata la prima giocatrice di tennis francese a diventare la numero uno al mondo, quindi direi che ha un curriculum di tutto rispetto. Esatto, e invece si sono sprecati fiumi di inchiostro dove tutti parlano di passo ineluttabile, oppure dicono bisogna arrendersi, oppure ancora pari opportunità. Forse questi giornalisti non hanno capito una cosa, cioè Amélie non è in cerca di pari opportunità, ma Andy Murray vuole con Amélie costruirsi l'opportunità di giocare alla pari lui con i suoi avversari. E allora viva Amélie! Questa canzone, questa canzone è la traduzione di "per mangiare ci vogliono denti", capito? Bolle? Sì. Che succede? È la stampa, belletta, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente. E la stampa, bellezza, tu non ci puoi fare niente. Io stamattina vedo un'intervista di Eric Schmidt, il grande capo di Google, sul Corriere la Sera, poi vedo la firma Beppe Severini, dico mo me la godo tutta, me la leggo, proprio me la divoro, ero là che cercavo e volevo, insomma, me la sono letta tutta una volta, poi l'ho riletta due volte, infine l'ho ripassata professionalmente tre volte. Giovanni, non c'era una domanda che io mi aspettavo. Quante tasse pagate in Italia? Google Tax. Voglio dire, ma si è fatto, posso dire, un casino sulla Google Tax. È stata presentata, prima pagina di Repubblica ieri, presentata, ritirata. Parlava d'altro, dai. Ma non c'era la domanda. Vabbè. Canzoniere, che cattivi che siete con Severnini. Bella o non bella, tu sei tiranna come quelle che l'orgoglio della loro bellezza rende crudeli, poiché sai bene che per il mio infatuato cuore tu sei il gioiello più bello e più prezioso, eppure sinceramente c'è chi mirandoti dice che la tua faccia non ha il potere di far sospirare amore. Non sono così audace da dire che essi sbagliano, sebbene io lo giuri dentro me stesso. Mix 24. Beh, la nostra quota rosa oramai c'ha i fan scatenati. Gabriele di Ceccola, un mito, unica. Ma che voce ha la Tardelli? Ciao. Sarà mio. Passami un attimo. ideologici, paranoici e paesani. Allora, metto insieme due vicende. La intitolazione dell'aeroporto di Comiso nel Ragusano a Pio La Torre e la sconfitta del Partito Democratico a Livorno, raccontata adesso come il delitto di lesa superiorità morale, perché nella città che ha dato i natali al Partito Comunista di Antonio Gramsci non si può immaginare l'alternativa. Allora, ha vinto il candidato grillino e subito i commentatori chic e le femmine pittate ci mettono cappello, vestendo il successo grillino con l'abituccio di grande sartoria, quello dell'egemonia culturale, che è gramsciano, va da sé. C'è una sinistra radicale che ha votato in massa Grillo, dice il regista Paolo Virzì. E la storia della sinistra è stata sempre un mettere cappello, come a Comiso, appunto, dove invece di fare una scelta di identità e magari intitolare l'aeroporto a Gesualdo Bufalino o a Elvira Sellerio, ha vinto la retorica. Pio La Torre. Inutile. Siete ideologici, paranoici e paesani. Mamma mia. Beh, però pure noi siamo paesani. Insomma, comunque, tu non sei paesano. Noi abbiamo fatto il militare a Cuneo. Esatto, quindi paesani. Abbiamo trovato a Cuneo, c'è l'abbriatore. Con la camicia bianca, cioè, con la maglietta di io Mario. C'ho la maglietta. Terra e storia curata da Marina Milone. Come sempre racconteremo la storia di Giacomo Matteotti. Era il 10 giugno del 24 quando il deputato viene rapito e ucciso da un gruppo di squadristi. Il movente è che Matteotti a Londra aveva scoperto dei legami corrotti del governo Mussolini. Ce lo spiega lo storico Mauro Canali. Una società americana, una delle sette sorelle, la Sinclair Oil, aveva cominciato a fare pressioni su alcuni esponenti del governo fascista chiedendo l'esclusiva per la ricerca del petrolio. La cosa interessante, ad esempio, che Mussolini segue personalmente queste trattative. Mussolini, quando dà il suo beneplacito all'accordo, prega questi uomini della Sinclair Oil di rendere pubblico l'accordo soltanto dopo le elezioni del 6 aprile del 24. Dumini dice: io ho ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti perché Matteotti si accingeva a parlare alla Camera per denunciare l'accordo petrolifero tra la Sinclair Oil e il governo Mussolini, che chiamava in causa l'addirittura morale del fratello di Benito Mussolini, Arnaldo. Mix storia dopo il giornale radio 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS, aspettiamo le risposte per il canzoniere. E intanto, professor Doglio, buongiorno. Alla presentazione delle buste, ne abbiamo parlato anche prima, delle buste per i diritti del calcio di Serie A, c'è stato un grandissimo, una grande confusione, ma soprattutto è spuntato un outsider. Sì, è spuntato un signore che fino adesso, diciamo, non è spuntato personalmente, ma è spuntata una delle sue società, l'ultimo acquisto, Eurosport, il cui ha completato l'acquisto la settimana prima di partecipare all'asta per la Serie A italiana. Il proprietario di questa società, attraverso tutta una serie di società, certo, di controllo, è un certo John Malone, un nome cui bisognerà abituarsi a avere a che fare. Ecco, ma non era quello che voleva soffiare a Murdoch le azioni di News Corp? È esattamente quello che una quindicina d'anni fa ha fatto molta paura a Murdoch, perché ha tentato con grande pazienza e abilità a raccogliere sul mercato una quota di azioni arrivato al 25%, seconda solo a quella del fondatore, che aveva allora il 31%, e da quella posizione ha fatto capire molto chiaramente che avrebbe lanciato un'OPA. A questo punto, per bloccarlo, Murdoch gli ha ceduto il controllo di DirecTV, che era ed è tuttora la pay TV satellitare americana, esatto, e in cambio di quella quota di News Corp, per poi salire velocemente verso un più rassicurante 39%. Ecco, ma quest'anno, diciamo, quest'anno Malone ha mosso 100 miliardi. Per fare cosa? 100 miliardi di dollari, per fare cosa? Ha mosso 100 miliardi di dollari perseguendo una strategia che lui ha molto chiaramente in mente, che è quella di gestire contemporaneamente contenuti e il rapporto con gli abbonati utenti. Pochi esempi. La cosa importante è che lui ha venduto in America e ha comprato in Europa. Questo è un aspetto interessante. Molto è diventato, negli ultimissimi, diciamo, negli ultimi anni, è diventato il maggior azionista di Discovery Communication, che ha trasformato da operatore cavo specializzato in programmi di divulgazione scientifica a un gigante multigenere e multipiattaforma. Oggi, dopo gli America, l'America del Nord e l'America Latina, ha messo decisamente nel mirino Europa, ha comprato SBS in Scandinavia, il 100% di Eurosport, una quota di TSO, una parte del digitale terrestre di TF1 in Francia, ha la leadership di ascolti e di raccolta ma pubblicitaria sul TV italiano, con Real Time, di Max, Giallo, sì, e canali. Senta, ma che cosa farà con Discovery? Con Discovery, la prima mossa che ha fatto è stata per esempio di convincere la sua società Liberty Global e Discovery a comprare un importante produttore di contenuti televisivi e cinematografici che si chiama Oltre Media. È un grande indipendente inglese, ha un catalogo di centinaia e centinaia di titoli, ma la cosa interessante, a parte i titoli di cui è intestatario, Elizabeth, Midsommar Mysteries, sì, Hollywood, è la cifra, ha messo sul piatto $1 miliardo per comprare contenuti, un operatore di contenuti. Insomma, abbiamo un astro nascente di 75 anni, diciamo. Però sa che i vecchiacci sono tremendi, soprattutto quando hanno le idee chiare. Bene, bene, grazie professor Doglio, grande buttafuoco maestro del pensiero laterale, ci scrivono. Mario, c'hai una notizia finale prima della storia di Matteo? Due guerre dimenticate. La prima è che la città di Mosul in Iraq è caduta in mano a un gruppo fondamentalista, gente che spara, dell'ISI. E mentre in Afghanistan sono caduti 5 soldati della NATO, pare per fuoco amico. Sono tutti conflitti che oggi non fanno notizia sulle prime pagine dei cosiddetti giornaloni. E la guerra continua. Ma in realtà la guerra continua ed è molto interessante vederne l'evoluzione, ahimè. Posso prego, dire una cosa? Sì. Per esempio, 3 settimane fa Hezbollah, che sono considerati terroristi, sì, odiatissimi, sono nella lista, hanno liberato le chiese in Siria e hanno fatto suonare le campane. Hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Però pubblicità, non è stato detto da nessuno. Pubblicità.